cosa ha mangiato prima di pranzo, se tra mezzini, non lo so io. Cioè banale, cioè aranci. E poi si è mangiato un pezzo di pollo. Caldo. Tu vedi come le dico, che ha fatto lei con l'antenatore? Poi a sabato la piazziamo, perché ieri l'ho portata, l'abbiamo aperta lì nel sottopezzo, in tutta schiumata, e adesso, tanto che asciuga la schiuma, sabato la montiamo. La parecchio l'ho fatto, cioè, mentre se va via il coso, ricco. Si mette c'è la piaia di come, dopo si mette di come, dico beh, è un tempo, ti ho detto. Un certo quanto ha detto, come sei tu, ma va via, se non si mette via, si è morto, dal fruscio del prese. Di altro piangevo io, quello che sai tu, metto tutte quelle macchine che passano, si fa col ponte. In che senso? Sì, un certo quanto, già lo sai che riceve un sacco di scariche delle auto, scariche delle moto, è un casino. Io quando andavo qui era la volta sua, se hai tralicci, lo scarico delle auto, scaricati dell'asfalto naturalmente. Quello non riusciva, se arrivavo 9 10 lo sentivo, se arrivava 7 8 9 nulla, non c'era niente da fare, non sentivo nessuno, solo un FM mi riuscivo a sentire qualcosa. Ah, con la mantova, cosa c'è da dire? Ma sì, la mantova, c'è la turbo. Con la 20 settembre, la verità, ne sentivo di meno di porcherie, va? Ma con la mantova, la turbo è la cosa allucinante. Perché aveva un bel di roba, di tutto di più. Quando avevamo questa palazzina qua, con il 2009, con il Magnum, con la ce l'ho per la bella, però è... Sento a tutti, capito? Non sento le scariche elettriche. Ma qui è una cosa allucinante. A me non me ne fa. E ce l'ho qua nel ripetitore, nel campo, già lo sai. Perché io ce l'ho a 7 metri, due di ripetitori. Infatti quando vado a telefonare sento due soli, non ne sento uno solo. Mi sembra di fare una chiamata, come si dice, per... di quelle internazionali, capito? Squilla prima uno il ponte e poi squilla in automatico dopo un secondo l'altro, perché se uno è attaccato all'altro ci vanno a battimento. Così è la differenza di avere un'antenna aperta e un'antenna chiusa. Ok, già lo so, quindi il tema è che se proprio non ne ho, la verità, dicevo benissimo, è perfetto. È così. Ah, c'è Maria. Eccomi qua, mi ero allontanato. Cose che stava anche raccontando che non ti ho ascoltato quando ti sei appena ascoltato. Illumina Antonio. Sì, le scariche elettriche che ho qui io la ricontengo. È una cosa allucinante quando usavo 140, 70. Se uno passava a segnare 9 lo sentivo bene, se no era morto. Sentivo solo il fruscio e poi quando fa vento specialmente qui. O piove, i cavi dei tralicci cominciano a ballare. Sembrava il bagno della samba. Un macello veramente. No, io credevo che con la roba l'avevi già ritirato e funzionava va bene, perché ancora non l'hanno ritirata allora. No, ancora non l'ho ritirata. Il tempo non ce l'ho regalato io, non ho avuto tempo di niente, sto facendo tutta quella passi di tutti quei documenti, sono la stessa mia fratella per portarmelo qui il più veloce possibile. Perché là non lo senti, di un tanto non li tengono le persone ricoverate, per legge regionale, nazionale, perché spendono 2000 euro al giorno, ho detto una cosa del genere, quindi anche se è mezzo morto te lo portano a casa lo stesso. Ormai non è più come prima, rimane un mese e mezzo ricoverato in ospedale, anche 3 mesi, sono rimasti 3 mesi, figurati tu, senza fare nulla, per dire. Adesso 3-4 8 giorni e poi va, te ne vai a casa, ti curi a casa. A voi se stai male, che vi torni dopo di là, se no, pazienza. Ah sì, c'è quello vero, c'è già chi, c'è vero frate. È vero, purtroppo è vero. Allora, se va di là, lo metti in istituto, se sono di nove hai, l'istituto esci fuori e ritorni all'ospedale, poi passi da una strada all'altra. Ma se potevano mettere la tira, a cosa dicevi, no? A Tiesica, da Casino. Carità, ripeti un attimino che mi sta chiamando la signorina. Gatta, vediamo se c'è qualcun altro avanti. Già ti sentiamo anche a te avanti. Sì, 3-4, radio 3.5, ti ascolto tutti. Avanti abbastanza. Sì, non so neanche con chi stai parlando, ma come sento? Avrei QRM alto. No, QRM ce l'ho 0. Non è arrivata niente a me. Deve essere qualcuno vicino a te con portatile, boh. Su continentari, su continentari. È un giorno non ho sentito più propagazione, nulla. Molto li sto diventando. Propagazione niente. Morta, proprio di solito questo periodo c'era. Né propagazione francese, né spagnolo, nulla, neanche americano. Non si sente proprio quel nome, boh. Ah, sì.